Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Dopo quasi 30 anni, il muro di Berlino comincia a essere smantellato nel novembre del 1989, anticipando di poco la riunificazione tedesca, ufficializzata nel 1990. La sua caduta simboleggia la fine della Guerra Fredda e rappresenta l'avvio di un'epoca di nuovi equilibri politici tra Occidente e Unione Sovietica, dopo il crollo dei regimi comunisti. Era il novembre del 1989, crollava il muro di Berlino, crollava un mondo e oggi torniamo a guardare al di là di quel muro, che cosa c'era. L'abbiamo già fatto qui a Olimpia, ma davvero è una storia talmente vicina che riporta alla luce sempre dei nuovi particolari. Allora torniamo a vedere cos'era il calcio al di là del muro di Berlino, e in particolare proviamo a raccontarvi oggi la storia del calcio della Germania Est, dell'altra Germania, un calcio spesso misconosciuto, ma che seppe farsi valere a livello di Olimpiadi con un oro olimpico, a livello di mondiali, perché nei mondiali del 74 i fratelli minori, i tedeschi dell'est, batterono nel derby con la Germania Ovest, che poi sarebbe stata campione, e sempre nel 74, tra l'altro, una squadra di calcio dell'est, il Magdeburgo, conquistò a spese di un'italiana, il Milan, nell'occasione addirittura la Coppa delle Coppe, e poi tante altre storie che oggi ci aiuta a scoprire l'amico e collega che ho il piacere di ospitare qui a Olimpia, Roberto Brambilla, collega di Avvenire di mondofootball.com. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie mille, grazie dell'ospitalità. C'era una volta l'Est, storie di calcio dalla Germania orientale. Questo è il bel ebook che Roberto ha realizzato, edito da Edizioni in Contropiede, acquistabile su tutte le principali librerie online. Beh, Roberto, davvero una bella curiosità andare a scoprire com'era il calcio al di là del muro. Ecco, guardando a questo scenario in generale, quali sono le linee guida di quel calcio, di quello che noi storicamente vediamo come l'altro calcio, quello che si sviluppava all'ombra di quel muro? Allora, dal punto di vista calcistico, diciamo che lo possiamo definire un calcio molto fisico, molto come era quello tedesco dell'altra parte, però magari senza quei picchi di giocatori di classe o di classe così superiore come Beckenbauer, Netzer, che c'erano nell'altra Germania. Mentre dal punto di vista proprio dell'organizzazione, uno stato autoritario, una dittatura, dunque con grandissima influenza di tutti i poteri, perché essere in una squadra, avere una squadra a propria disposizione, non era solo un modo per vincere nello sport, ma anche per avere prestigio. L'esempio più eclatante è quello di Erich Mielke, che era probabilmente l'uomo più potente della DDR, che era il padrino, insieme a appunto la Stasi, cioè il Ministero per la Sicurezza dello Stato, era il padrino di una squadra, la Dinamo Berlino. Viene annunciata ora la formazione della Roma, che prevede Tancredi, Mela e Righetti, Bonetti, Falcao e Maldera, Conti, Tereso, Pruzzo, Di Bartolomei e Graziani. Ecco ora lo schieramento della Dinamo di Berlino: Rudvalait, Greter, Trilo, Bach, Mike, Troppa, poi Terletti con il numero 7, Rath con il numero 8, Ernst con il numero 9, Schultz con il numero 10, Tom con il numero 11. Dinamo Berlino, che ricordo incrociò la Roma anche in una Coppa Campioni, che poi giallorossi, quella Coppa Campioni che poi persero in quella sciagurata finale dei calci di rigore contro il Liverpool, no? Quindi insomma anche squadra come la Dinamo Berlino che sapevano farsi valere a livello continentale. Sì, squadre che hanno comunque, ci sono state per esempio la Lokomotiv Lipsia, che arrivò in finale della Coppa delle Coppe alla fine degli anni 80 e fu persa quella finale grazie a un bellissimo gol di Marco Van Basten, che credo sia l'ultimo gol di Van Basten prima poi di passare al Milan. Ma poi capito anche è in una finale molto particolare che io in parte racconto, è quella con Kazay Siena contro Dinamo Tbilisi, due squadre del muro con una partita giocata in Germania Ovest con pochissimi tifosi e praticamente nessuno che ci poteva andare, perché se i sovietici non concedevano visti per gli allora georgiani, non li concedevano quelli dell'est assolutamente, ma per quelli del, per andare di là, per paura soprattutto della fuga, che era una delle paure più grandi per tutti. Eh sì, praticamente una partita in campo neutro, no? La finale in campo neutro, ma nel vero senso della parola, quel Kazay Siena che ancora una volta aveva sgambettato la Roma, no? Vittoria all'andata 3-0 per la Roma, al ritorno a Jena un patatrac colossale. Sì, tra l'altro partita giocata al pomeriggio, con in Italia non trasmessa perché era finita 3-0 l'andata e ovviamente essendoci il monopolio con con un paio di reti, perché Rai 3 forse era lì di venire, e il grosso problema fu proprio questo, che gente raccontò di averla sentita con questa partita, che praticamente loro giocarono a ritmi altissimi, infatti fecero l'ultimo gol credo a pochi minuti dalla fine e poi la partita non riuscirono più a recuperare, e qualcuno poi fece anche delle accuse, tra cui l'unico che non le fece fu ovviamente Lidl, che non era nella sua classe, però molti dissero: secondo me questi corrono più di quanto noi avremmo pensato. Beh, insomma, il doping di Stato, ed è storia di questi giorni, sicuramente al di là del muro e molto probabilmente pure al di qua, non è certo solamente fatto di cronaca d'attualità. Senti, tu che l'hai studiato, toglimi e togli anche agli ascoltatori di Olimpia una curiosità. Il dilettantismo, no? C'era, insieme a quel muro è crollato anche uno dei miti di cartone, cioè il fatto che non esistesse lo sport professionistico, no? In nome di un equalitarismo che poi nei fatti non sussisteva, perché gli sportivi avevano dei benefici e di fatto erano totalmente dedicati all'attività sportiva, anche i calciatori. Sì, assolutamente, i calciatori erano esattamente dei dilettanti di Stato. Questo aveva, in pratica, loro avevano un lavoro, per esempio Jürgen Kroy, che era il portiere della Nazionale 74, era ufficialmente un saldatore. Lui lavorava in una delle fabbriche che lavoravano nell'indotto per la famosa Trabant. E però ce n'erano altri, per esempio, che avevano altri mestieri, ma erano mestieri fittizi perché loro, ovviamente, percepivano molto di meno rispetto ai colleghi dell'Ovest, però ricevevano tanti benefit, perché essendo in uno stato in cui c'era pochissima possibilità di avere, per esempio, alcuni beni che noi consideriamo di lusso, loro venivano aiutati, magari gli veniva data, a posto di aspettare più anni per una macchina, gli veniva data subito, magari avevano una casa, avevano delle possibilità. Era questo, tra virgolette, il plus, più che il salario mensile. Kroy si diceva prendesse circa 400 marchi della DDR, che è uno stipendio di un medio lavoratore. Non era sicuramente uno che avrebbe potuto fare la vita di lusso, anzi chi si avvicinava al lusso, lo stesso Petr Duszke, fu allontanato dal Kazay Siena perché nell'81 per un problema, lui aveva la sua macchina era stata rovinata da un incidente e praticamente chiese in prestito una Citroën, cioè una macchina dall'altra parte, praticamente fuori gioco, esatto, e non si può fare, e lui fu escluso perché dicendo che aveva avuto un comportamento antisocialista. Questa era un po' l'idea che avevano i vertici, per dire, quando dicevo l'importanza e l'ingerenza della politica. Dicevamo anche, facevi riferimento giustamente a queste spie che in modo occulto chiaramente facciano parte di qualsiasi trasferta oltre cortina. Insomma, è vero, cioè è vero che queste squadre venivano accompagnate anche dagli agenti dei servizi segreti. No, assolutamente, soprattutto quello che era importante è quello che in tedesco sono praticamente sono considerati inoffizielle Mitarbeiter, cioè sono dei collaboratori non ufficiali. Se qualcuno di voi ha visto Le vite degli altri, il film, quelle persone che non sono effettivamente membri della Stasi, non sono dei militari, ma sono delle persone che in cambio di aiuti, o appunto beni di consumo, agevolazione della carriera, si offrono di dire quello che vedono. E queste erano persone che accompagnavano sempre, perché il grosso problema, come è successo, era quando andavano nei paesi dell'Ovest, perché soprattutto nei primi anni in cui molte persone non erano cresciute nella DDR con una mentalità per cui l'Ovest era il nemico. Ma semplicemente era una mentalità tutta da costruire. Lutz Eigendorf, che è la persona che purtroppo ha pagato con la vita la sua fuga, nessuno saprà, finché non saranno desecretati i documenti, se è stato ucciso o ha avuto semplicemente un incidente. Lui scappò perché andò a fare un'amichevole e quando tornò ebbe quel momento libero per cui riuscì ad infilarsi su un taxi e farsi portare dall'altra parte al Kaiserslautern. E lui fece così, lui praticamente si fece 350 km in taxi con un numero di telefono che era quello della persona con cui aveva parlato la sera prima in tasca e poi lui rimase di là. Ma quelle ce ne sono state tante, però loro erano sempre seguiti da membri ufficiali e non ufficiali della sicurezza. E quindi insomma sì, anche la vita degli sportivi per i pochi benefit che portava, pur pesanti, no? Oltre Cortina, era comunque una vita estremamente controllata, anche perché poi qual era l'effettiva fama di questi campioni? Oggi siamo abituati ai Messi e Cristiano Ronaldo, allora quando io avevo un bel po' più di capelli c'erano i Gullit e Van Basten, quando il muro cominciava a sgretolarsi, o i Matteus, ma ecco, al di là del muro questi campioni del calcio quanto pesavano socialmente? Pesavano in buona maniera, non erano forse come altri, perché loro pesavano molto secondo il peso olimpico. Cioè tu quante medaglie portavi eri considerato un esempio, ma soprattutto loro erano per concezione proprio sportiva, contraria alla personalizzazione. Per esempio un giocatore come Peter Dusch, che avrebbe potuto giocare tranquillamente a fianco a Beckenbauer o a fianco a Uwe Seeler, giocatore di una classe immensa che giocava nel Calcio Siena, lui era sempre stato uno che era stato un po' visto male perché era un individualista, però erano, ovviamente erano dei divi. Per esempio ci sono molte immagini con Hans-Jürgen Kreisch, che giocò proprio quella partita del 74, attorniato dai fans, persone che copiavano il suo modo di portare i capelli molto lunghi, un po' alla Beat con qualche anno di ritardo, però non erano dei, non si potevano considerare dei divi, anche perché chiunque provasse a personalizzare era immediatamente più controllato e soprattutto portato verso il dire il collettivo, perché in uno stato socialista non può vincere il singolo, ma deve sempre vincere la squadra, il collettivo, il sistema. Beh, sentite quanti aneddoti Roberto Brambilla ci sta snocciolando di quello che era lo sport e non solo il calcio al di là del muro di Berlino. Allora prendiamoci un attimo di pausa, poi torniamo qui a Olimpia insieme a Roberto per sbirciare ancora attraverso le crepe di quel... Olimpia, miti e verità dello sport. Signori all'ascolto, buonasera. Eccoci giunti alla partitissima del gruppo 1 tra le due Germanie. È gara importante per intuibili motivi di carattere soprattutto extra sportivo. E il pubblico ha risposto a pieno e gremisce in ogni ordine di posti le tribune del Volksparkstadion di Amburgo. Non ci sono problemi di sorta per le due formazioni, entrambe già qualificate, se non per la supremazia nel girone. Le premesse per una gara combattutissima comunque ci sono. Si stanno esaurendo i preliminari. Via! Ben ritrovati a Olimpia, oggi puntata davvero particolare perché con una guida d'eccezione, Roberto Brambilla, amico e collega di Avvenire, di mondofootball.com e autore di C'era una volta l'Est, la storia del calcio della Germania orientale, edito da Edizioni in Contropiede, questo splendido ebook. Stiamo sbirciando al di là del muro di Berlino per riscoprire quello che era il calcio oltre Cortina, il calcio della Germania dell'Est, il calcio minore che seppe però anche trovare dei riconoscimenti e delle soddisfazioni e delle vittorie. Mi viene in mente ad esempio proprio quella che ricordavamo in precedenza, Roberto, contro il Milan ottenuta dal Magdeburgo nella finale della Coppa delle Coppe 1973-74, quel 74 che è stato un po' l'anno magico del calcio della Germania orientale. Insomma, proprio il diavolo ci lasciò le penne contro quei tedeschi dell'est. Tra l'altro fu molto particolare perché la prima partita di quella competizione fu giocata in Olanda contro una squadra che però non poteva giocare nel suo stadio perché aveva uno stadio che non era, come diremmo noi, a norma. E giocò nello stesso stadio del De Kuip, dove poi si giocò la finale. E l'allenatore, per caricare, disse: ragazzi, vedete sto stadio? Noi, fra 8 mesi, qua ci torniamo e magari veniamo qua anche a vincere. Lui disse così e arrivarono appunto a questa finale in cui ovviamente erano due squadre a due poli opposti del loro sviluppo. Il Milan praticamente alla fine di un ciclo, con un giovanissimo Giovanni Trapattoni in panchina, però era il più, aveva addirittura Karl-Heinz Schnelliger, credo che avesse più o meno la stessa età di Trapattoni, e invece il Magdeburgo era in uno dei suoi punti più alti, con una squadra che era un po' come altre squadre della storia del calcio, come il Celtic del 67, formata praticamente da tutti i giocatori che venivano dalla zona del Magdeburgo, cioè venivano da quella zona e hanno fatto un grande exploit. Poi hanno vinto questa finale, ovviamente anche atleticamente superiore, ma anche con una buona squadra. Infatti tra i giocatori di quella squadra c'era il famoso Sparwasser, che qualche mese dopo segnò in quella partita contro la Germania Ovest, e lui disse: e il mio grosso problema è che io ho fatto gol molto più belli, ma il problema è che si ricordano solo questi. Ho fatto un gol che era, credo fosse la semifinale con lo Sporting Lisbona, un gol bellissimo, solo che tutti mi dicono ho fatto quel gol lì. E io sono, e lui diceva, se nel caso dovessi mancare non dovrebbero scrivere nella mia tomba Jürgen Sparwasser, potrebbero semplicemente scrivere Amburgo 22 giugno 74, qui giace, sarebbe perfettamente chi era. Il lancio in direzione di Sparwasser, tiro e gol, 1-0 per la Germania orientale, passata in vantaggio la Germania orientale con gol di Sparwasser, incredibile, alla mezz'ora di gioco della ripresa Sparwasser. Eh sì, veramente quel gol pur semplice tutto sommato è entrato nella storia del calcio, e non solo, no? Perché effettivamente ogni alloro in qualche modo prolungava la credibilità internazionale del regime, no? Il legame tra sport e propaganda, al di là e anche al di qua del muro, è sempre stringente. Sì, no, poi con un particolare, Manfred Ewald, che era il capo del Comitato Olimpico, che in Germania non si chiama Comitato Olimpico ma ha un altro nome lunghissimo, e in pratica il grosso problema è che Ewald non amava il calcio. Lui, dopo la prima partita delle Olimpiadi del 76, che fanno 0-0 col Brasile, dopo si giocava in un caldo infernale con un jet lag appena passato, erano completamente cotti, fanno 0-0, e praticamente lui dice: ragazzi, qua avete coperto di vergogna la DDR, facciamo una cosa, che se continuate così io la prossima vi mando tutti a casa. E Buchner, che l'allenatore, che era uno che prima di diventare membro della Z da giovane era stato nel 44 membro del Partito Nazionale Socialista, cioè uno che era lì, a lui della politica non fregava niente, ma fregava solo di giocare, disse: vabbè, io non ho sentito niente, noi andiamo fino alla fine. E loro arrivarono alla fine con praticamente Ewald, che non andò alla premiazione, perché poi quell'anno lì loro vinsero moltissime medaglie, nuoto, atletica. Tra l'altro ci fu Waldemar Czerpinski, che vinse la maratona, che credo che è uno dei pochi ad aver vinto due maratone di fila. E anche lui, tra l'altro lui, a differenza di altri, era maggiore della polizia, della Stasi, cioè lui era proprio un militare. Quindi è assolutamente integrato nella struttura di controllo del regime. Ma sono tante le storie che racconti, mi viene in mente quella proprio di Reinhard Lauch, no? Di chi stiamo parlando? Dato che io dico sempre, quando qualcuno me lo chiede qual è il problema, che quella partita, quella del 74, ha fagocitato tutto, si è mangiata tutto. E in questa partita ci sono ovviamente personaggi come Sparwasser, che sono passati alla storia, e questo Reinhard Lauch è molto particolare, perché era il mediano di quella squadra. Buchner gli disse: guarda, tu hai un compito, tu devi annullare Overath e poi dovresti annullare se dovesse entrare Netzer. Lui l'ha fatto benissimo tutte e due. Poi però lui, come spesso è capitato quando è caduto il muro, cioè con dei problemi di adattamento di sistema, lui ebbe moltissimi problemi, perché lui lavorava per la Dinamo di Berlino. Quando la Dinamo Berlino perse l'appoggio e diventò una società normale, lui aveva il grosso problema di reintegrarsi. Lui era una persona un po' particolare, aveva questo vizio che poi purtroppo diventò una delle ragioni che lo portò alla morte, cioè quello dell'alcolismo, ed ebbe molti problemi. E lui era il mediano di quella squadra, un grandissimo giocatore, perché era un portatore d'acqua, ma avere dei portatori d'acqua così, insomma, la Gattuso, esatto, cioè Benetti, uno che giocava di fianco a gente molto più brava di lui. E lui poi, finita questa parentesi, ebbe molti problemi nel 94, quando si riportarono, volevano fare questa partita dopo 20 anni, tutti, c'era chi voleva giocare, chi non voleva giocare. Lui fu portato, lui aveva un problema al ginocchio che gli aveva fatto smettere di giocare, e praticamente lui arrivò a questa partita praticamente ubriaco, e c'era Buchner che non sapeva cosa fare. Cioè lui raccontava che Buchner è morto dopo Lauch, diceva: io quando l'ho visto ci sono messo a scherzare, ma non sapevo cosa fare, perché era comunque, aveva avuto questa parabola, è stato l'unico che ha avuto questa parabola in quella squadra. Sicuramente un caso emblematico di quella prima generazione, non solo di sportivi ma proprio di abitanti oltre Cortina, che impattarono clamorosamente con le macerie del muro, no? L'Occidente era l'Eldorado, e quel sogno accecante spesso bruciò molte vite. Su quell'altare vennero sacrificate molte vite. Un'altra storia che mi interessa, Uwe Rösler, protagonista, leggo dal tuo libro, di un fantasmagorico 3-3 della DDR contro il Brasile. Sì, il fantasmagorico fu soprattutto per come cominciò, perché praticamente volevano fare una partita di preparazione, allora avevano la Bulgaria e poi dovevano mettere un'altra partita in Brasile, e 8 mesi prima chiamarono e dissero: no ragazzi, noi ci serve fare questa amichevole con una squadra che non giochi in mondiale, perché ovviamente sarebbe stato scoprirsi. E Möldenauer, che era il presidente a interim, che doveva, il muro era già caduto, stavano portando il calcio da DDR verso il calcio della Germania Unita, disse: vabbè ragazzi, io sono qua solo a gestire, cioè io se volete vengo. E fa: no no, ma paghiamo tutto noi, facciamo tutto noi. E loro fanno: oh, noi veniamo, non siamo mai stati al Maracanã. Vengono, fanno questo 3 pari, e Uwe Rösler era una storia particolare, uno perché è uno dei pochi tedeschi amati in Inghilterra, il Manchester City presce Icky, Uwe Rösler è un giocatore amatissimo, quasi come Bert Trautmann, che però era dell'Ovest. E lui poi ebbe questa caratteristica, che lui era un ragazzo, e tuttora un po' gli rimane questa cosa perché dice quello che pensa, ebbe qualche problema da ragazzo. Si disse che in pratica andarono a fare una trasferta e lui praticamente guidò una moto che non poteva guidare. Fece qualcosa che non doveva fare e praticamente la Stasi l'aveva messo sul suo libro nero. Però lui disse: ma io non ho mai capito perché io poi ho continuato a giocare. Lui poi, quando caduto il muro, sono stati aperti gli archivi della Stasi, con tra l'altro uno dei che ha sovrinteso a tutto questo è l'attuale presidente della Germania, Joachim Gauck, anche lui un perseguito della DDR, disse: oi ragazzi, io sono andato a guardare, ma quelle 25 pagine in cui parlano di quello non c'è scritto più niente, è come se avessero strappate. E lui disse: io mi continuo a domandare chi mi ha salvato, io continuo a ringraziarlo, ma non so chi devo ringraziare, perché lui abbozzò che fu il suo presidente che disse: beh, un ragazzo di 18 anni, magari qualche cavolata la può anche fare. Questo era un po'... Quindi c'è stata una mano fatata che strappò quel rapporto e forse salvò anche una vita. Senti, il tempo è tiranno e anche dittatore, ancora più in radio che oltre cortina. Ma ti chiedo, proprio da esperto e appassionato, in conclusione, una battuta su un piccolo grande miracolo che arriva dall'est in Germania e che si sta in qualche modo ripetendo, no? C'è il Red Bull Lipsia, che è protagonista di questa prima parte della stagione in Bundesliga. Alla luce della tua esperienza da grande conoscitore di ciò che avveniva oltre cortina, credi che questo miracolo, che ha tutt'altre origini, possa continuare? Allora, io, quando tutti me l'hanno chiesto più di una persona, perché ne ho parlato, e io ho detto semplicemente che bisognerà vedere la sosta invernale, però è molto particolare perché è un punto, non ha nulla a che vedere con quello, perché è sostanzialmente, come idea, viene dall'Austria, da dove viene la bevanda che poi li ha appoggiati. Però già è tanto, perché io, parlando con ragazzi di quelle parti, anche colleghi, mi dissero: noi qui non ci importa che ci sia questo, quell'altra azienda dietro, ma è importante che noi per la prima volta rivediamo una squadra dell'est giocare con le grandi della Bundesliga. E allora, per la cronaca ve la racconteremo con tutti i particolari del caso. Per la storia vi invito ancora una volta a leggere C'era una volta l'est, storia di calcio della Germania orientale, edizioni in contropiede, lo splendido ebook di Roberto Brambilla, che ringrazio per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.